Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: resta sempre al centro del dibattito la posizione tedesca e quella greca, ce ne occuperemo più avanti. Qualche spiraglio, va detto, è arrivato dalla Germania dopo posizioni molto dure, non solo nei confronti di un eventuale riscadenziamento della, o meglio, diluzione di quello che è il programma di austerity in Grecia, ma anche dopo gli attacchi che sono arrivati la settimana scorsa e questa settimana alla Banca Centrale Europea guidata da Mario Draghi. Dicevo, qualche apertura si registra sul fronte tedesco, non nulla di ufficiale, però il vicegruppo dell'Unione Michael Meister ha detto bisogna ammettere che Atene ha fatto molto e qualche aggiustamento forse ancora possibile, e questo apre uno spiraglio bellino sulle sorti della Grecia nella settimana in cui, per la precisione venerdì, il presidente greco Antonis Samaras incontrerà a Berlino Angela Merkel. E questo è il fronte, diciamo, Grecia-Germania. C'è poi il fronte spagnolo. Devo dire che la Spagna oggi ha emesso titoli a 12-18 mesi per 4 miliardi e mezzo di euro, quindi bonus spagnoli per questo valore. I tassi sono risultati in calo dal 3,9% al 3% per i bot spagnoli a un anno e dal 4,2% al 3,3% per i bot, o come diremo noi, BTP a 18 mesi. È un calo importante. La domanda è stata molto buona, superiore ai 10 miliardi di euro, che vuol dire quasi più del doppio, tant'è che il governo spagnolo inizialmente voleva collocare solo 3 miliardi e mezzo di obbligazioni, cioè chiedere prestiti per solo i 3 miliardi e mezzo. Vista la domanda forte, ha chiesto prestiti per 4 miliardi e mezzo. Notizie che fanno il paio con l'andamento dello spread italiano, che è anche spagnolo. Quello italiano è sceso sotto i 410 punti, a 409. Il rendimento dei BTP italiani a 10 anni, che vengono utilizzati per capire appunto il grado di affidabilità di un paese, quanto costa un paese per indebitarsi, sono scesi al 5,65%. Poi ci sono le agenzie di rating, che devo dire la pensano in maniera diversa, e questo secondo me è un segnale positivo. Cioè, quando le agenzie di rating si muovono in maniera diversa, vuol dire che c'è una certa autonomia di giudizio. Perché dico questo? Perché da un lato Standard & Poor's sostiene che ci sono rischi di una nuova recessione in America e timori anche per l'Europa. Moody's, l'altra grossa agenzia che dà i voti e i giudizi ai paesi, dice le riforme riducono, ben le riforme in Spagna che riducono gli squilibri della Spagna e della Grecia, ma anche di Irlanda e Portogallo, le riforme strutturali, anche se non hanno risolto completamente gli squilibri esterni. La correzione, dice Moody's, è completata solo a metà. Per l'Italia, invece, aggiunge Moody's, c'è una forte necessità di correzioni strutturali e macroeconomiche per uscire dalla crisi, pur ricordando Moody's che l'Italia ha compiuto alcuni progressi in aree specifiche, come ad esempio la riforma del mercato del lavoro, e può contare su alcuni punti di forza. Io ricordo sempre che l'Italia ha un avanzo primario, cioè prima di pagare gli interessi sul debito noi abbiamo un bilancio dello Stato in attivo. È come una famiglia che dovesse giudicare i suoi conti economici e dicesse, prima di pagare gli interessi sui prestiti che ho ottenuto, mutuo o quant'altro, il mio bilancio è inattivo, cioè incasso più di quello che spendo. Poi, chiaramente, dovendo pagare gli interessi per il debito, vado sotto, vado in rosso. Infatti l'Italia ha un deficit. Non a caso, però è importante vedere le entrate e uscite prima di pagare gli interessi. E questo è Moody's. Fitch, la terza delle tre agenzie di rating a livello mondiale, dice no, l'Italia ha fatto quello che doveva fare, basta austerity, basta tagli, non ha bisogno di altre misure di austerità, quelle varate sono sufficienti, adesso deve fare le riforme. Senza progressi comunque nell'area euro, possibili nuovi tagli al voto dei vari paesi, e ripeto, giudizi molto diversi sull'Italia. Di questo parleremo, ma parleremo anche di quello che sta capitando al mondo dell'agricoltura, sia per l'allarme siccità in Italia, ma non solo, e i prezzi lievitano, ma anche per l'allarme prezzi agricoli a livello mondiale. E c'è un'iniziativa interessante di cui parleremo, la pressione di alcune organizzazioni internazionali, ONG, che da sempre si occupano di combattere la fame nel mondo, di aiutare i paesi in via di sviluppo a sviluppare un'agricoltura sostenibile. Beh, la pressione sulle banche, sulla finanza che utilizza i derivati, quindi futures e quant'altro, per speculare sul prezzo futuro delle materie prime, ha fatto sì che alcune banche tedesche abbiano ridotto notevolmente, in alcuni casi anche eliminato e soppresso, l'utilizzo di derivati sulle materie prime di carattere agricolo. Perché questo? Perché si ritiene che sia molto poco etico andare a speculare sul prezzo di mais, soia, grano e quant'altro, laddove questo è il principale alimento di sussistenza per milioni, centinaia di milioni di persone al mondo. E si ritiene anche che proprio la speculazione, cioè proprio l'utilizzo di derivati e di leva finanziaria su queste materie prime amplifichi le oscillazioni, un po' come avviene anche per il petrolio, amplifichi le oscillazioni e quindi aggiunga danno al danno, visto che, come sto per raccontare, oggi abbiamo un nuovo record, per esempio, nel prezzo della soia, e non è l'unico. Tutte le materie prime di carattere agricolo sono ai massimi livelli per vari motivi, problemi negli Stati Uniti e in Russia in primo luogo, anche l'Ucraina e il Kazakistan, il caldo molto pesante che colpisce la parte, diciamo, mediterranea dell'Europa. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Dunque, un ascoltatore scrive: ma come, un mese fa eravate tutti contrari alle agenzie di rating e adesso siete a favore? No, nessuno ha detto che siamo a favore. Ho fatto notare che le tre agenzie hanno tre giudizi diversi e secondo me in generale è un sintomo soprattutto di indipendenza. Dopodiché i miei dubbi personali, ma non solo miei, sui conflitti di interessi delle agenzie di rating, sul fatto che che dentro queste agenzie di rating vi siano i principali fondi comuni di investimento anglosassoni, sul fatto che abbiano che siano, diciamo, anglocentriche come atteggiamento, restano anche le cavolate fatte dalle agenzie di rating in questi anni, il livello investment grade per Lehman poco prima che fallisse, non aver messo in guardia sui rischi reali, il sospetto che siccome vengono pagate da coloro che giudicano vi possa essere un fortissimo conflitto di interessi, insomma il fatto che si possono muovere anche sensibili ai fondi comuni di investimento, sono sospetti che abbiamo spesso espresso e che restano tutti lì, non si preoccupi. La borsa molto bene di nuovo: Milano più 2,15%, Parigi più 1,1%, Francoforte più 0,90%, Londra più 0,60%, e l'America guadagna lo 0,34%, euro a quota 1,2484, quindi in rafforzamento. Molto bene i bancari anche oggi. Il Monte dei Paschi vive di logiche sue, ossia da quando Alessandro Profumo ha detto che la fondazione potrebbe ridurre la sua quota dentro la banca senese, continua a salire il titolo, più 6,5% oggi a 24 centesimi di euro per azione. Ma bene anche il Banco Popolare, più 5,60, la Popolare Emilia Romagna più 5,5 come Mediobanca, il 4,5 lo guadagna Intesa San Paolo, il 4,5 è il rialzo anche di Generali e di Atlantia, il 4% Buzzi Unicem, il 3,5% la Popolare di Milano, il 3% Prismian e Unicredit, il 2,80 il rialzo di Ubibanca, il 2,5 quello di Finmeccanica e Mediolanum, ma anche di Salvatore Ferragamo. Non c'è un titolo negativo oggi a Piazza Affari tra quelli a maggiore capitalizzazione, quello che guadagna meno è Terna, più 0,40%. Le altre notizie in breve: oro e petrolio, oro stabile, petrolio in rialzo a $97 al barile. La Cina oggi ha deciso una mossa espansiva di politica monetaria, ossia ha immesso nel sistema liquidità per circa $34 miliardi, con due pronti contro termine a 7-14 giorni. In Gran Bretagna, a sorpresa, si registra un deficit a luglio, sono crollate le entrate fiscali provenienti dalle imprese. l'IRAP britannica, diciamo così. L'ammanco è stato pari a 600 milioni di sterline, mentre un anno prima c'era stato un surplus di 2 miliardi e 840 milioni di sterline. E le previsioni per luglio erano di un attivo di 2 miliardi e 2. E per gli analisti questi dati mettono a rischio tutti i piani di riduzione del debito di Londra. Nel frattempo, visto che parlavamo di Grecia, il governo greco ha approntato un nuovo pacchetto di tagli alla spesa pubblica pari a 13 miliardi e mezzo, sono quasi 2 miliardi in più rispetto a quelli richiesti. Questo perché ci sono nuove voci di un nuovo buco sui conti pubblici in Grecia. E adesso due notizie che faranno arrabbiare i nostri ascoltatori. Le tasse locali in Italia, le tasse locali, perché non ci sono solo quelle di carattere nazionale, hanno fatto un vero e proprio boom, purtroppo, negli ultimi anni, negli ultimi 15 anni. Sapete di quanto sono aumentate le varie IRAP, IRPEF, le addizionali regionali, comunali? Del 114% negli ultimi 15 anni. Ogni italiano in media paga 1.700 euro di tasse locali e in assoluto complessivamente valgono 102 miliardi di euro. E intanto in Emilia si torna a pagare. Lo scorso 14 agosto il presidente dell'Emilia Romagna Vasco Errani ha presentato la richiesta per prolungare le agevolazioni fiscali per i terremotati e rinviare così a fine 2013 i pagamenti delle tasse per chi ha subito danni dal sisma, perché insomma banalmente non è giusto che paghi l'IMU chi ha una casa inagibile. La richiesta però è stata respinta al mittente dall'Agenzia delle Entrate, per cui se non vi saranno novità dal prossimo 1 ottobre gli emiliani, anche gli emiliani delle zone terremotate, torneranno a pagare l'IMU. Ora io dico, abbiamo difeso Monti ieri e Passera quando dicono che le tasse vanno pagate, che non bisogna chiamare furbi in senso elogiativo coloro i quali vadano il fisco, che un paese, che in tutti i paesi le tasse si pagano e solo da noi c'è questo atteggiamento così. Però se lo Stato vuole essere credibile e l'Agenzia delle Entrate pure, Attilio Befera, ma si può chiedere l'IMU a chi ha ancora la casa inagibile nelle zone terremotate? Un applauso all'Agenzia delle Entrate. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Dunque, intanto un ascoltatore ci segnala in questo istante che il comune di Pescara avrebbe chiesto 150 biglietti gratis per la partita con l'Inter. Molto, molto tifosi, evidentemente. No, ma vorrei raccontare questa crisi per quello che riguarda invece la Banca Centrale Europea, che è allo stremo. Non tanto Mario Draghi sottoposto agli attacchi della Bundesbank e dei falchi tedeschi, ma i dipendenti della Banca Centrale Europea, che ha sede a Francoforte. Praticamente sono così allo stremo per il carico di lavoro e l'assenza di personale che la BCE ha deciso di assumere 40 persone nuove nell'organico. I dipendenti della BCE sono al limite delle forze, titola il giornale tedesco Die Welt, e la Banca Centrale ottiene nuovi posti nella lotta contro la crisi dell'Eurozona, ma meno di quanti auspicati. È difficile anche per la Banca Centrale Europea, ma non è l'unica notizia che abbiamo su questa crisi strana. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Chi ce l'ha li metta fuori circolare, miei signori? E chissà che la crisi finirà. Effetto crisi sui reati. Dopo 3 anni di flessione, parlo dell'Italia, chiaramente tornano a crescere con un aumento record i furti in casa, nei negozi e i borseggi. Purtroppo la difficoltà economica è anche si analizza anche così. Lo trovate oggi il dato e l'analisi su Sole 24 Ore, che ha elaborato i dati raccolti dal Viminale per tracciare la mappa della situazione. Nel 2011, in sostanza, Sole 24 Ore di ieri, scusatemi. E nel 2011 i reati sono ammontati complessivamente a 2.760.000 contro i 2.620.000 del 2010, il 5% in più. ma se analizziamo, come ha fatto il Sole del lunedì di ieri, nel dettaglio i dati, si scopre che i furti delle abitazioni hanno fatto più 21%, a quota 205.000. Le rapine ai negozi più 21%, i borseggi più 16%, gli scippi più 24%. La città che ha la più alta incidenza di reati in rapporto alla popolazione è Milano, 7.300 ogni 100.000 abitanti, ed è anche la prima come volumi, seguita da Roma. Napoli è in testa per truffe, 353 ogni 100.000 abitanti, e rapine, 270 ogni 100.000 abitanti. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Il Molise, la regione Molise, alle prese con i derivati. La regione Molise avrebbe infatti sottoscritto contratti derivati, quindi quelli che amplificano le guadagni ma anche le perdite, la carta tossica che secondo molti e anche secondo chi vi parla ci ha portato a pie pari in questa crisi infinita. Dicevo, la regione Molise ha sottoscritto contratti derivati per circa 300 milioni di euro. E dice, vabbè, improvvisamente la regione Molise è come Wall Street, la City, Hong Kong. Peccato che nessuno in regione sappia quali siano le condizioni, le caratteristiche e i rischi dei contratti stipulati. Allora, siccome nessuno ci capiva una mazza, si può dire mazza d'estate, forse sì, la regione Molise cosa ha deciso di fare? Ha affidato una ricognizione della situazione ad un consulente esterno, stanziando a tal fine 20.000 euro, insomma... Prima stipuli un contratto di cui non capisci nulla per 300 milioni di euro. Siccome poi ti accorgi che non ci capisci nulla, chiedi a un consulente, pagandolo 20.000 euro, di spiegarti che cosa hai firmato, che è bellissima come storia a mio avviso. Ennesima sorpresa però, non è finita qua. La consulenza è stata disposta da Alessandro Dalcin, dirigente assunto a tempo determinato e da quanto risulta dal lungo curriculum è esperto proprio di finanze e di contratti derivanti. La scelta di Dalcin, che è anche genero, ma dell'ex presidente democristiano del Molise Enrico Santoro, a sua volta titolare di un contratto di consulenza sul federalismo fiscale, duramente criticata dalle opposizioni. Ringraziamo anche oggi Sergio Rizzo del Corriere della Sera per questa chicca. Regione Molise, è fare le cose che si sanno fare, no? E magari non fare derivati, a meno che sotto sotto qualcuno non abbia convinto in altri modi, ma questo non lo pensiamo noi. E non ci sia qualche tornaconto personale nell'avere stipulato 300 milioni di euro in contratti derivati senza capire che cosa stavate firmando. E meno male che vogliamo il federalismo. Un applauso alla Regione Molise. Si arresta, cambiamo tema chiaramente. La corsa dei prezzi alimentari sui mercati finanziari è a causa della peggiore annata negli ultimi decenni dovuta al clima. Veniamo ai dati più recenti. La soia, dato di oggi con consegna a novembre, ha superato sul mercato di Chicago i 17 dollari al bushel. Il bushel sarebbe il sacco, è quello che si usa per misurare, l'unità di misura per i derivati, per i prodotti di origine alimentare, per le commodities alimentari, sono circa 27 kg un bushel. È un livello altissimo, spinta dalle domande per l'esportazione negli Stati Uniti. Pensate che dall'inizio dell'anno la soia ha aumentato il suo prezzo del 41%, in crescita anche il mais a 8,26 dollari, anche se leggermente sotto i massimi dei giorni scorsi. Questo sta creando dei problemi enormi, non solo in Italia, adesso ne parleremo, ma anche a livello mondiale. Pensate che i prezzi delle materie prime di carattere alimentare, che per molti paesi sono la principale fonte, paesi in via di sviluppo, di sussistenza, riso, soia, mais, sono, diciamo, diete alimentari che prevalentemente hanno uno di questi prodotti, hanno generato situazioni obiettivamente insostenibili. In Yemen, siccome sono aumentati i prezzi delle importazioni di cibo del 90%, di grano soprattutto, si calcola che vi siano 267.000 bambini a rischio morte, non a rischio fame, a rischio morte per gli effetti della malnutrizione dovuta appunto all'impossibilità dei genitori e delle famiglie di acquistare grano e altri prodotti di prima necessità, visti i prezzi, più 90%. Ed ecco perché accogliamo con piacere quanto hanno deciso di fare alcune banche tedesche, spinte dalla pressione di varie organizzazioni che si occupano, organizzazioni umanitarie, di aiuti di carattere alimentare in primo luogo, e mi riferisco a Oxfam, a World Development Movement, a Food Watch, che con una pressione di lobby positiva hanno, tra virgolette, imposto o spinto le banche a utilizzare meno derivati, sempre di derivati parliamo, e cioè strumenti altamente speculativi sui prodotti alimentari. Perché? Perché si sostiene che utilizzare la leva finanziaria su questi prodotti amplifichi moltissimo anche le oscillazioni di prezzo, che altrimenti, se dovessero incrociare solo domanda e offerta, sarebbero più basse. Le banche sono Deutsche Bank, Commerzbank, Decabank e la banca regionale del Baden-Württemberg. Non so se anche le banche italiane abbiano intenzione di ridurre gli investimenti speculativi sul valore dei prezzi alimentari, ma intanto ringrazio da un lato Francesco Torregiani di Oxfam Italia. Buonasera, dottor Torregiani. Buonasera e un saluto a tutte le ascoltatrici e ascoltatori. Grazie. E dall'altra parte invece Domenico Mastrogiovanni, che è responsabile del Dipartimento Sviluppo Agroalimentare e Territorio della Confederazione Italiana Agricoltori. Buonasera anche a lei, Mastrogiovanni. Buonasera. Con lei parleremo più che altro dell'Italia, per cui avete fatto un calcolo che avremo danni per 1,2 miliardi tra siccità ed altro. Però Torregiani, restiamo un attimo a livello mondiale. Voi avete calcolato valutato un insieme di motivi per cui le materie prime sono sotto pressione, sono a record. Un'annata terribile, la peggiore da 60 anni negli Stati Uniti. Un'annata bruttissima anche in Russia. E poi Ucraina e Kazakistan. Poi c'è l'utilizzo di queste materie prime anche per il biodiesel, bio prodotti di carburanti di carattere vegetale, che aumenta i prezzi, e il fatto che i paesi in via di sviluppo spendono tantissimo per approvvigionarsi di petrolio. Quando il petrolio arriva ai prezzi che vediamo, questo decurta il loro budget per acquisire materie prime, mais, riso e quant'altro. Qual è il ruolo, secondo voi, di queste delle banche, o meglio della leva finanziaria, degli strumenti derivati sui prezzi finali delle materie prime alimentari? Beh, diciamo, in linea di massima noi crediamo che diciamo, l'uso delle leve finanziarie rispetto ai prodotti alimentari non sia in sé sbagliato né pericoloso, anzi in qualche modo può essere un meccanismo che garantisce anche i piccoli e medi produttori, perché hanno, diciamo, minori rischi in quanto i prezzi dei loro prodotti sarebbero in questo modo fissati. Il problema, come lei ha segnalato, è che quando questi meccanismi non sono regolati, non hanno dei meccanismi di regolazione, diciamo, che permettano che le speculazioni non siano eccessive. Ecco, quindi non è sbagliato in sé il meccanismo, è come questo viene o non viene regolato. Questo è il punto sul quale abbiamo insistito come Oxfam Italia, e in qualche modo e anche come insieme ad altre organizzazioni è stato raggiunto un primo importante risultato, che è quello che lei ricordava rispetto ai fondi di investimento per le pensioni legati alle banche tedesche. Quindi questo viene da un grosso lavoro, anche come ricordava lei, sulle banche, ma anche sui titolari, diciamo, dei fondi pensione. In questo caso è chiaro che se un singolo cliente di una banca va e fa presente le sue perplessità etiche sull'uso che la banca fa dei propri fondi, questo non ha nessun peso quando in qualche modo la pressione è fatta dagli interi clienti, insomma, quindi dai fondi pensioni e dalle persone che ne sono legate. Questo ha un effetto positivo di lobby positiva. Sì, allora una cosa la devo chiarire: gli strumenti derivati in generale, futures e quant'altro, nascono come strumenti di ricopertura, cioè una specie di polizza assicurativa. Quando tu fai un investimento, dici vabbè, però nel caso le cose andassero male, L'effetto leva vuol dire che tu investi 1000 euro ma giochi su un sottostante che può essere 10.000, 20.000 euro, per cui se i 10.000 euro fanno più 10%, tu guadagni 1.000 euro e rispetto all'investimento hai guadagnato il 100%, se i 10.000 euro diventano 9.000, tu hai perso 1.000 euro, se hai perso il 100% del tuo investimento. Ma nascevano come strumenti di ricopertura. Il problema è che sono diventati, nel corso di questi anni, fino al botto del 2008, sono diventati strumenti di investimento diretto, cioè c'è chi lavora solo sui derivati, non chi li usa come polizza assicurativa sull'investimento. E questo lo dico perché un conto è ricoprirsi in gergo tecnico sul rischio che il prezzo del mais o della soia cali o scenda, un conto è speculare direttamente, brutalmente, su prezzi futuri. Detto ciò, è importante che poi le ONG a livello mondiale riescano a convincere, facendo leva sull'immagine, sulla corporate image, come si chiama in gergo, delle banche. Vorrei sapere appunto se anche in Italia le banche, ammesso o non concesso che lo facciano, stanno riducendo i loro investimenti massicci sui derivati delle materie prime agricole. La vostra analisi sul motivo per cui, a livello, visto che voi vi occupate proprio di situazioni di emergenza ma anche di agricoltura sostenibile nei paesi in via di sviluppo, per cui si è arrivati a una situazione addirittura peggiore di quella del 2008? Beh, in questo caso rispetto al 2008 la differenza grande è che nel 2008, diciamo, c'era stato lo shock petrolifero, quindi l'aumento del prezzo del petrolio, con conseguente aumento anche della domanda sui biocarburanti, e quindi chiaramente questo ha fatto di conseguenza anche aumentare il costo dei prodotti basici, perché comunque il Gran Turco, per esempio, ha, diciamo, questa doppia funzione, sia come biocarburante che come base per l'alimentazione sia delle persone sia anche dell'allevamento, quindi questo ha avuto un effetto a catena. Nel 2012 non è tanto il petrolio a aver causato questo shock quanto la siccità. La siccità, che a sua volta non è un fenomeno in controllo, è nel breve periodo, ma è un fenomeno che a sua volta è legato al cambio climatico. Quindi altra attività importante che la Confederazione Oxfam porta avanti è la sensibilizzazione e la lobbying per il cambio climatico, quindi per ridurre le emissioni e cercare di limitare o di ritornare indietro rispetto al cambiamento climatico. Ricordiamo che siamo ormai a più di 200 mesi consecutivi in cui la temperatura la temperatura media di quel mese continua ad aumentare, quindi questo è un altro importante effetto, diciamo, che si può in qualche modo controllare attraverso, certo, l'azione che facciamo. Quindi come dire, le cose sono in questo caso strettamente legate e quindi ecco, le analogie finiscono qui rispetto al 2008, ma è chiaro che poi il meccanismo è lo stesso, certo. Il mercato del cibo è tipicamente anelastico, perché comunque la gente deve comunque mangiare anche se il prezzo aumenta, e quindi questo poi porta alle conseguenze che lei citava rispetto agli Yemen o altri. Sì, certo, noi potremmo mangiare e sprecare un po' di meno, onestamente, dalle volte, però è un mercato inelastico, anche perché mettere a produzione un campo non è una cosa che fai dalla mattina alla sera. Non c'era nessun riferimento per chi era in regia, visto che sorridete, ma era proprio una riflessione sui nostri consumi, sugli sprechi. Poi magari un giorno faremo anche una puntata sugli sprechi delle nostre catene alimentari, supermarket e quant'altro, sono delle cifre impressionanti. Comunque, un'ultima domanda per lei, poi vorrei passare invece alla Confederazione Italiana Agricoltori. Per inciso, visto che voi lavorate molto al di là dei progetti degli interventi di emergenza, cioè quando c'è un terremoto, un disastro naturale, ma lavorate molto sull'agricoltura sostenibile in questi paesi in via di sviluppo, diciamo, la vostra linea guida e la direttrice d'approccio qual è? Cioè rendere possibile coltivazioni locali, chiedo. Esattamente. E non più le monoculture? Allora, diciamo che se da una parte si lavora, diciamo, sul livello tra virgolette politico, quindi il lavoro di lobbying di cui abbiamo parlato finora, c'è anche un lavoro poi sul territorio che noi portiamo avanti nei paesi dove siamo attivi. Cercare per esempio di ridurre la dipendenza da input esterni dell'agricoltura, quindi la monocultura in questo senso richiede grandi investimenti in termini di concimi chimici e quindi questo in qualche modo mette in difficoltà il piccolo produttore, perché è chiaro che l'aumento del prezzo del cibo potrebbe in teoria essere anche un vantaggio per chi produce, ma se questo non ha modo di produrre perché c'è anche un aumento dei prodotti, del costo, diciamo, per mettere la coltura sul terreno, è chiaro che il vantaggio si annulla. In questo senso noi proponiamo quindi un'agricoltura più diversificata, più legata anche alle tradizioni locali. Faccio un esempio banale: in Ecuador noi promuoviamo il recupero dei cereali tradizionali andini come la quinoa e l'amaranto, sono prodotti ad alto valore nutritivo, che hanno un'alta domanda sul mercato, anche il mercato equo-solidale, quindi è importante anche che il piccolo produttore possa essere presente sui mercati internazionali con una giusta remunerazione, e sono anche più tolleranti rispetto al cambio climatico, perché sono, diciamo, hanno un germoplasma adattato alle condizioni locali, quindi sono più flessibili, sono più resilienti, come si dice, rispetto al cambio climatico. Se a questo accompagniamo tecnologie appropriate come introduzione di sistemi a risparmio idrico, in qualche modo riusciamo a contrastare, diciamo, gli effetti diretti, certo, del cambiamento climatico e della riduzione della pioggia. Quindi è un mix fra saperi locali tradizionali e moderni conoscimenti agroecologici, dei quali pensiamo in qualche modo di poter recuperare le sementi tradizionali che esistono meglio anche al tipo di clima di quel paese, e però unire anche quello che la ricerca ha prodotto in questi anni. Io devo dire che poi di fondo gira rigira il tema è sempre solito: quando tu hai a che fare con oligopoli, cioè con centri che lavorano quasi a livello monopolistico, che dettano il prezzo delle derrate alimentari come materie prime, ma anche dei prodotti chimici che servono per concimare e produrre queste derrate alimentari, è chiaro che il vaso di coccio è l'agricoltore, soprattutto se è l'agricoltore dei paesi in via di sviluppo. Io la ringrazio, grazie a Francesco Torreggiani di Oxfam Italia. Dottor Mastro Giovanni, resta ancora in linea, ho la pubblicità e il meteo. Devo dare una risposta sintetica a chi, io capisco che faccia caldo, però a chi ritiene offensiva la canzone che usiamo, ma cos'è questa crisi? Dice, lei ci sfotte con questa canzone, noi che lavoriamo e tiriamo la carretta, ci spernacchia. No, guardi, lei non ha capito, mi dispiace. Quella canzone sfotte tutti coloro i quali, non vedendo la crisi, si permettono sprechi a livello di province, comuni, regione, assessori, li ne abbiamo raccontati a centinaia. Lo spernacchiamento è per chi spernacchia noi, e cioè per chi continua a fare i comodi suoi, i porci comodi, sprecando risorse, sprecando tasse, ignorando che c'è una crisi in corso. Questo era il messaggio. Mi rendo conto che forse non è sempre così facile leggerlo. Meteo. Focus Economia. Di nuovo in diretta, vedo con piacere, devo dire, moltissimi messaggi sul tema della speculazione sulle materie prime di carattere agricolo e soprattutto su questo annus horribilis nell'agricoltura mondiale, e anche l'Italia non fa eccezione, complice il clima, ma non solo, molti di voi se la prendono con le biomasse, hanno in parte ragione, c'è stato un po' di leggerezza lì nel dire produciamo carburanti attraverso i vegetali, perché insomma i costi, anche i costi in termini di acqua, perché poi un giorno faremo una puntata su quanta acqua ci vuole per un campo di mais, a meno che non sia la colza che ha rese più alte per produrre poi carburante da autotrazione. Invece noi siamo alle prese con danni per 1,2 miliardi secondo la Confederazione Italiana Agricoltori. Dottor Mastro Giovanni, se vuole commentare anche quanto abbiamo detto prima, a me va benissimo, ma vorrei che ci facesse una rapida analisi della situazione in Italia in questa settimana così fresca. Io partirei dalla sua presentazione. Gli elementi di siccità segnalati anche dal vostro giornale prima di giugno hanno innescato delle conseguenze in questi giorni con un rincaro delle materie prime. Noi abbiamo stimato che gli effetti del perdurare della mancanza di piovosità, quindi siccità nei campi, porta ad una diminuzione della produzione di materie prime, e per citare un singolo esempio, il mancato raccolto di foraggio ha già portato alcune tipologie foraggio sì, come la medica, a superare già i 20 euro al quintale, quando era intorno a 15. L'erba medica. È venuto a mancare il secondo e il terzo raccolto a causa della siccità. È il periodo in cui si sta raccogliendo il mais, c'è una perdita di produzione, il mais può essere impiegato per motivazioni diverse, però la prima è quella della alimentazione zootecnica, e gli animali, se non vengono alimentati, non producono, e quindi anche qui si stanno innescando dei meccanismi, perché quando la materia prima diminuisce sul mercato ci sono le logiche conseguenze. Infatti oggi la Coldiretti stima un più 13%, anzi un crollo, un meno 13% nel raccolto europeo di tutto il mais destinato all'alimentazione degli animali, meno 13% non è poca cosa, per produrre latte, carne, formaggi e salumi. Per cui... Perché il mais evidenzia un elemento della capacità competitiva del settore agricolo. Vi sono delle regioni in cui per ritardi infrastrutturali la capacità di irrigazione non è al meglio, per cui quando si manifestano degli elementi critici come in questa siccità, la produzione rischia di essere ridotta anche il 50%. Sì, tra l'altro i paesi più colpiti sono quelli tra i principali produttori in Europa, Ungheria, Romania e Italia, sul mais. Esattamente, quindi in Italia in particolare... Senta, so che sto per fare una domanda scema e me lo dico da solo, però visto che il tecnico non si sorprende, ma è in regia, però dico, visto che questo Lucifero, dopo aver avuto Minosse, Ulisse... C'è gente che è tornata al liceo con questo clima, però dovrebbe esaurire i suoi effetti tra una settimana. Non è che poi nel resto del mese e poi a settembre la situazione tornerà ad essere più normale, si normalizzerà? Torna a essere normale perché potranno essere garantite le semine delle nove, però il raccolto negli ultimi diciamo 20-30 giorni chiaro. Ormai è compromesso e quindi quello, la perdita che noi abbiamo stimata è una stima, ma può essere anche più accentuata perché come dicevano le previsioni si tornerà ad un clima più mediterraneo, ma non è detto che ci siano precipitazioni adeguate a compensare la necessità di risorsa idrica che si sta manifestando in questi giorni in diverse regioni del paese. La soluzione mi sembra che non ci sia, però adesso non possiamo, c'è chi scrive piove governo ladro, è secco governo ladro, vabbè, ma non possiamo, mi dica. La soluzione è che il comparto agricolo in quanto tale, essendo alla base del sistema agroindustriale che genera anche un valore aggiunto notevole delle catene commerciali notevole, avrebbe la necessità di avere un po' più attenzione perché l'agricoltura... Ancora sussidi? No. Sussidi? No, sussidi no. No. Sussidi stiamo no. Parlando di attenzione di carattere politico perché quando si parla di gestione delle risorse idriche, della necessità di infrastrutturazione delle risorse idriche, sono sì necessarie perché tutti beviamo acqua, però non esiste una coltivazione in un paese come il nostro che non sia assicurata se non si può irrigare e quindi... La necessità di mantenere condizioni di competitività significa anche creare le condizioni per chi fa questa attività, perché se c'è acqua disponibile questa deve essere garantita che possa essere distribuita, perché altrimenti grandi quantità di risorse vanno perse, perché non è questo la puntata, però è chiaro che in questo paese c'è una grande disponibilità ma una scarsa diciamo facilità nell'erogazione, perché molta per problemi strutturali delle infrastrutture. No, ma la faremo una puntata sull'acqua appena diciamo l'euro ci fa sapere se esisterà o no. Però in una battuta finale, questo vuol dire che poi per noi, per tutti quelli che sono consumatori di prodotti alimentari, cioè che io sappia tutti, i prezzi sono destinati a salire in automatico? Non necessariamente i prezzi sono destinati a salire, perché il mercato mondiale tende a fare delle compensazioni delle produzioni attraverso il commercio. Di certo ci sono alcune produzioni che non potranno essere recuperate nel breve termine, mais in particolare perché ha un ciclo annuale, però ci sono altre coltivazioni che nell'arco di tempo il mondo agricolo può recuperare, quando parliamo di ortaggi in particolare, perché molti in questi ultimi giorni sono stati abbandonati per difficoltà di irrigazione, però se si ricreano le condizioni un campo di zucchine cresce in pochi giorni, non ha necessità di un impiego annuale. E quindi noi pensiamo che se si fa attenzione non tanto alle primizie o alle particolarità, ma si va alla ricerca di un'alimentazione corretta, ricollegandola a quello che diceva prima, perché noi abbiamo il grosso compito, da un lato di migliorare la competitività ambientale di questa produzione, ma dall'altro assicurare la sicurezza alimentare di una popolazione che cresce. Sembrano due cose che percorrono... No, ma poi ce ne occuperemo anche quando parleremo di acqua, per capire... Insomma, gli israeliani notoriamente sono leader mondiali nelle tecnologie che permettono di produrre beni, materie agricole con pochissima acqua. Per ora quello che vedo crescere, ma a livello diciamo dell'economia generale, più che i campi di zucchine sono campi di cetrioli. Io la ringrazio e con queste battute diciamo, il programma ha toccato un livello più bassi. Grazie Domenico Mastrogiovanni, responsabile del Dipartimento Sviluppo Agroalimentare e Territorio della CIA. Il traffico, poi la borsa che invece oggi è andata molto bene, più 2,40%. Bene tutti i bancari, e poi questa proposta di Alberto Lesina, economista molto ascoltato, che dice ma insomma l'Italia dovrebbe chiedere aiuto, non vergognarsi di chiedere aiuto all'Europa. 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. Di nuovo in diretta, giornata positiva si diceva per le borse, l'asta spagnola di BOT è andata, e di BTP è andata molto bene, e lo spread italiano è in calo, più 2,40% Milano, bene i bancari, il Monte dei Paschi è un caso a sé, quindi leggerò prima gli altri, Popolare Emilia Romagna più 6,60, benissimo, Banca Popolare più 5,50, Intesa San Paolo più 5, Generali più 4,80, Mediobanca più 4,70, Atlantia, che non è un bancario, più 4,20, Buzzi Unicem pure, il 3,20 lo guadagna Prismian, il 3,20 anche Popolare Milano, UbiBanca più 2,90 come Unicredit, Mediolanum più 2,70 come Finmeccanica. Chiudiamo con Ferragamo, Azimut e Fiat, che guadagnano il 2,5% e anche A2A. Non c'è alcun titolo negativo tra quelle maggiore capitalizzazione, c'è Terna, che è quella che guadagna meno, lo 0,65%. Guido Maurino, Radio Coro, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Monte dei Paschi, che invece vive di logiche sia europee ma anche della riduzione della quota della fondazione dentro la banca, più 7,22%, il miglior titolo. Sì, c'è ancora questo tema della riduzione della fondazione Monte dei Paschi nell'istituto, c'è anche il tema del tesoro, in quanto Monte dei Paschi che aveva chiesto i Tremonti Bond poi trasformati in Monti Bond, e nel caso in cui l'istituto non chiude in utile nemmeno quest'anno per il 2012, come appare probabile a causa di svalutazioni che potrebbero essere decise dal Consiglio che dovrà approvare la semestrale nei prossimi giorni, automaticamente, diciamo, questo prestito concesso dal Ministero del Tesoro dovrebbe essere convertito in azioni. Quindi c'è anche questa prospettiva oltre a quella della fondazione. Sì, Tremonti Bond, no? Di tempo addietro. È l'unico motivo, perché insomma le altre banche guadagnano tra il 3 e il 5, cioè è il riassetto e il prestito quello, sì, che spinge. Il riassetto, il prestito, il fatto che comunque potrebbe trovarsi con questo capitale in più, oltretutto pagato molto caro da parte del tesoro, perché il calcolo è fatto non sul prezzo di borsa ma sì, sul patrimonio netto, per cui potrebbe trovarsi questo capitale aggiuntivo con un azionista come il tesoro fra il 3 e il 7%, adesso gli analisti sono ancora un po' divisi sui calcoli. Allora, ancora due titoli, vabbè, Mediaset bene anche oggi, ma alcuni analisti iniziano a dire che inizia a essere un po' alto, vabbè. Generali e Fiat. Sì, per quello che riguarda Generali, oggi sono rimbalzate da oltreoceano delle indiscrezioni che vorrebbero la compagnia triestina in procinto di vendere la sua attività nel ramo della riassicurazione negli Stati Uniti. Si parla di un mandato che sarebbe già stato dato per valutare i possibili interessi sul mercato. Le attività valgono fra gli 800 milioni e un miliardo di dollari e sarebbe un pochettino la prima mossa del nuovo amministratore delegato Mario Greco ai vertici di Generali. Sull'onda di questa indiscrezione, che però non è ancora stata confermata, comunque Generali ha guadagnato il 4,81%. Per chiudere la Roma Calcio, Guido Maurino, in cui sostanzialmente il fatto che De Rossi ha detto che resta e non va al Manchester, il titolo si è mosso bene, benissimo. Sì, diciamo che dopo questa conferenza stampa convocata alle 3 del pomeriggio, diciamo, il titolo ha preso a salire con più vigore, ha chiuso a più 10,54%, certo. Il centrocampista sembra a questo punto che resterà nella capitale. Bene anche il Credito Bergamasco più 11,90, molto bene, e Centrale del Latte Torino più 14,60, male TAS meno 5,60 e poi poco Aeroporto di Firenze meno 2,70%. Grazie Guido Marino, Radio Corriere sulle 24 ore. Ultimo tema, gli aiuti che la Spagna si appresta a chiedere, c'è chi dice anche l'Italia dovrebbe chiederli all'Europa, non si dovrebbe vergognare. Lo sostiene l'economista Alberto Lesina, che dice: l'Italia chiede aiuto, non è offensivo dare nuove garanzie all'Unione Europea, i paesi in difficoltà devono accettare di cedere alcune prerogative a Bruxelles, sarebbe utile ricevere questi aiuti per l'esecutivo politico che verrà dopo Monti. Alberto Lesina, che insegna tra l'altro anche all'Università di Harvard, oltre che alla Bocconi di Milano, buonasera. Buonasera a lei.

Io la intervisto e lei mi risponde. Su questo sono d'accordo, stessero tutti un po' più zitti, vista la tensione che c'è a livello europeo e sui mercati in generale, sarebbe meglio parlasse uno solo e una volta per tutte. Grazie al professor Alberto Lesina, economista dell'Università di Harvard e Bocconi, e la fine di questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.